got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? E allora mettiamoci a tavola con Indovina chi viene a cena, il film che è anche la nostra scusa ufficiale per parlare di cibo, ma anche di pregiudizi, integrazione fra culture, tutte cose che pensiamo si possano superare, come a tavola superiamo a volte certe nostre avversioni. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani. Ieri era anche la festa della donna, auguri a tutte le donne in ascolto, e per questo abbiamo invitato alla puntata di oggi una signora, Charito Basa, buongiorno. Buongiorno. È la rappresentante di molte donne filippine in Italia. Charito Basa, poi ce lo racconterà meglio, è arrivata in Italia moltissimi anni fa per fare la domestica, ha vissuto per molti anni come clandestina, poi ha cambiato lavoro, ha lavorato con ONG internazionali, adesso è la vicepresidente del Filipino Women's Council, un'organizzazione di immigrati che opera in Italia. Questa organizzazione vuole sensibilizzare e rendere consapevoli dei propri diritti le donne filippine migranti, e anche Cavaliere della Repubblica. Sì, praticamente sono venuta in Italia per fare lavoro domestico, ma con un po' di fortuna la mia voglia di fare altre cose, ho trovato lavori molto più interessanti al di là della mia aspettativa. Quanti anni fa innanzitutto è arrivata in Italia? Oh, esattamente 27 anni fa, nel 86, il primo novembre. Se lo ricorda ancora? Diciamo la data della mia nascita, si ricorda perfettamente. Era il suo compleanno? È il mio compleanno, sì. E partiamo innanzitutto dai piatti. Cosa ci cucina oggi? Perduti nel mare. Un nome bellissimo, non sembra neanche una ricetta, sembra un libro, un film. Di cosa si tratta? Questa, anche il nome della ricetta l'ho fatto io. Andavo al mare nelle Filippine un pomeriggio e ho trovato i pescatori che avevano diversi, diciamo, frutti di mare e un po' di altri pesci, e ho dovuto comprare perché erano freschissimi. Ho cominciato a cucinare buttando tutto sulla padella e ho chiamato Perduti nel mare. Non ero sicuro che usciva proprio buono, invece sì. Ed è una ricetta di sua creazione che poi daremo alla fine proprio come ricetta con gli ingredienti e quant'altro, quindi state in ascolto. L'altra ricetta che lei ha preparato è un piatto fusion. Sì, questo proprio il bollito di manzo all'italiano, però cambiato con un po' di, diciamo, ho aggiunto il famoso lemongrass, alcune piantine che ogni anno ce ne sono una marea nel mio giardino qui a Roma. Perché ha scelto queste ricette? Al di là del gusto personale, c'è anche un ricordo per gli odori, i sapori di casa sua? Soprattutto il lemongrass, veramente sono innamorata di questo ingrediente, non si chiama. Il lemongrass per noi è importante. Si usa non solo nelle Filippine ma anche in Thailandia, in Vietnam, nel loro zuppa, ecco, perché ho viaggiato un po', ho scoperto che, oddio, non eravamo solo noi in Filippine ad usare questa. E mi fa proprio ricordare il mio paese. Ogni volta che mangio questo piatto mi ricorda mia madre, ecco, è bellissimo. Il suo madre era una brava cuoca e mi pare di capire anche lei si diletta molto in cucina. È il mio, diciamo, passatempo quando sono un po' giù. vado al mercato, vedo questi diversi colori, torno a casa, cucino e mangio e poi cambia il mio umore. Quando è arrivata in Italia, aveva verso questi gusti un pregiudizio negativo magari, oppure è stata subito entusiasta della cucina italiana? Oh, io amo la cucina, la cucina italiana è bellissima. Ecco, mi sono innamorata subito e provo tutto. Ho imparato dal mio suocero, dal mio marito e dai parenti del mio marito che sono tutti italiani. Adesso sono meglio di loro, per dire. It's the language of the Philippine Islands called Tagalog. And it says, the women of Warai Warai have muscles like steel and we can fight any battle. But our kisses are as sweet as wine. Warai Warai! Insomma, questa era una canzone che lei mi ha segnalato, una canzone delle Filippine. La cantante dice in inglese a un certo punto, l'avrete sentito, questa è la canzone di un'isola delle Filippine dove le donne sono forti e però i nostri baci sono i più dolci. E come mai questa canzone, Cherry Tobasa? Mi piace molto anche perché ieri era la festa delle donne e volevo ricordarsi questa canzone che mi fa ricordare, diciamo, questa isola di Leyte, dove parecchi amiche miei provengono, che dicono proprio che le donne lì sono forti e non hanno paura di niente, comunque sono brave. E ricordiamo anche qualche dato: i filippini sono stati fra i primi stranieri ad arrivare nel nostro paese, lavorano come colf e badanti, è una delle comunità di migranti più numerose. Tra l'altro il 10% della popolazione filippina, leggevo, vive all'estero. Ogni giorno circa 3.000 persone abbandonano il loro paese in cerca di un futuro migliore. Il 70% di questi migranti è donna e le Filippine sono il quarto paese a livello globale per entità delle rimesse. Insomma, un'emigrazione tipica femminile, che comporta anche dei disagi, immagino, nel lasciare i propri figli, la propria casa, il marito, no? Appunto, sì, infatti ci sono costi sociali molto elevati, perché poi immaginiamo la mamma che parte, che va via per non sappiamo quanti anni, figli sono piccoli, che crescono senza la madre. Questa è infatti il problema più grande della comunità filippina. Vanno via per accudire i figli, diciamo, dei paesi che ci ospitano. Il sacrificio è grande, ma il costo è talmente alto che si è creato una specie di dipendenza alle rimesse. La mamma riesce a riempire la lacuna con i soldi, che è negativo, ovviamente. Nei nostri studi abbiamo trovato che i figli sono viziati, è già un disagio che ha un impatto al non solo alla famiglia ma anche alla comunità, no? Invece, sì, lei si riferisce a degli studi che ha fatto, tra cui anche un rapporto che ha pubblicato insieme a un'altra donna filippina, una ricerca, proprio la prima ricerca su quello che avviene in Italia e nelle Filippine con questo espatrio delle donne filippine, no? Quindi sì, anche sì, con una dipendenza, diceva prima, da parte di figli e anche, immagino, mariti della comunità che rimane nelle Filippine, dipendenza dalle donne, che, da questo lavoro delle donne all'estero, dalle rimesse, dai soldi che arrivano, quindi per effetto si abituano a uno stile di vita molto ricco e non lavorano quasi più, alcuni almeno di questi. E la maggioranza. Infatti stiamo cercando, come associazione delle donne filippine in Italia, dopo la ricerca che lei sicuramente ha letto, abbiamo nei nostri programmi, continuiamo a fare una specie di seminario o formazione soprattutto per le donne filippine, per le mamme, che si chiama alfabetizzazione finanziaria. Almeno a livello economico possiamo aiutare, come spendere meglio il loro, diciamo, guadagno e non mandare tutto nelle Filippine, che poi vengono spesi nelle, diciamo, nelle cose che non sono proprio importanti. Tra l'altro con effetti anche per le donne qui che sostengono un pesante indebitamento, mandano tutto a casa e alla fine non pensano al loro futuro e neppure al loro presente, insomma. Però come dicevamo prima e come sottolineava anche lei, voi siete qui e molto spesso nelle nostre case vi occupate di famiglia, di bambini, di anziani e quindi sostenete un po' anche il lavoro delle donne, noi donne italiane. Sentiamo un trailer di un film di qualche tempo fa. Ho trovato un lavoro oggi al Jackson Journal. Diventerò una vera scrittrice. Oh cielo, credo proprio di sì. Brava, scrivi il mio necrologio. Charlotte Phelan, deceduta. Sua figlia, ancora zitella. Evelyn, sono tutte qui e non hai apparecchiato. Evelyn, hai fatto una macchia. Signore mio, perdonami, ma quella io l'ammazzo. Sai anche tu che in ogni casa di bianchi ci vorrebbe un bagno fuori per i domestici. Forse è per te che andrebbe fatto un bagno fuori, Ellie. Cosa? Scriverei di cose che mi disturbano. L'ascolto. Mi è cresciuta una donna di colore. Ho visto quanto possa essere semplice e complesso. Mi è cresciuta, mamma. Non dire sciocchezze. Farei conoscere il punto di vista delle cameriere. Un libro così nessuno l'ha mai scritto. C'è una ragione. Queste donne crescono i bambini bianchi, ma in casa non possono neanche usare il bagno. Mimi, sei lì dentro? Tu sei licenziata! Meglio se scrivo io le mie storie e poi gliele leggo. Allora, questo è il trailer di un film di qualche anno fa, The Help, l'aiuto, che si riferisce all'America di quando in particolare nella città del sud c'erano degli aiuti di donne afroamericane che sostenevano, insomma, facevano crescere i bambini bianchi, come si sente anche nel trailer. Una situazione molto diversa da quella che di cui stiamo parlando con Charito Basa, che arriva dalle Filippine, è arrivata dalle Filippine più di 20 anni fa, però insomma ci sono delle similitudini, no, Charito Basa? Voi crescete i bambini delle italiane, questo è un fattore anche sociologicamente interessante. Dicevano nel film, perché in quegli anni, negli anni 50, quando è ambientato il film, crescono i nostri bambini e non facciamo neanche usare loro il bagno. Le è mai capitata una situazione, facendo la colfa, facendo la babysitter, così di discriminazione, in cui si è sentita a disagio? Beh, io personalmente no, però sicuramente le altre donne filippine una volta... Ho aiutato una ad essere, come si dice, impiegata in un lavoro di casa, che non la fanno entrare nel bagno, perché non lo so. Allora questa ragazza filippina mi ha richiamato, diceva non voglio più tornare a quella casa. Perciò succede, ma forse raramente, perché voglio pure dire che gli italiani adorano i filippini. Secondo una ricerca di Milano, in una università, mi sembra università cattolica, i primissimi nel posto sono i senegalesi e poi i filippini. Hanno un rispetto verso i filippini, però questo rispetto non so come si traduce, perché quando si parla del pagamento, del versamento dell'INPS, pagamento del TFR, ci sono sempre problemi cui noi veniamo coinvolti, perché andiamo ad accompagnare questi filippini a esprimere questo problema spesso con i sindacati. Warang babaring warai warai asiga siga kaisan kabahina ay lumalaban kabahina manang hawai warai warai siyan dyan ditatakas warai warai handanang matodas warai warai bahala na bukas warai warai manigas. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Girl, you'll be your woman soon. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? Torniamo a parlare con voi e con Charito Basa, una delle rappresentanti della comunità filippina in Italia, in questo giorno che segue al giorno della donna, ma nel quale continuiamo a parlare di aspetti che riguardano la condizione femminile in Italia e la condizione anche delle persone, delle donne filippine in Italia e il loro apporto come contributo economico del welfare di questo paese è indiscutibile. E parliamo con Charito Basa anche delle difficoltà, come ci spiegava qualche volta, che si hanno non tanto nell'essere accolte, mi pare di capire, dagli italiani, ma quanto poi nel far rispettare i diritti. Non è soltanto essere impiegato i lavori, non è soltanto avere un lavoro, ma avere pure tutti i diritti, sapere tutto quello che sta succedendo in Italia, accesso al lavoro oltre il lavoro domestico delle case. Però ovviamente senza conoscere molto la lingua non si può accedere a questo, diciamo, sogno di lavorare in un ufficio o lavorare in altri settori e lasciare il lavoro domestico. Secondo me il problema principale è la lingua. Imparare l'italiano. Tra l'altro, come dicevamo, l'italiano anche perché è la lingua del paese dove queste persone vivono, c'è una grossissima comunità, anche a Roma dove lei stessa vive, vedo che leggevo dai dati che sono 65.000 le persone che lavorano, filippine, che lavorano in città dove in questi giorni, come lei vedrà attraversando le vie della capitale, si parla molto del conclave, quindi del nuovo Papa, e la comunità filippina, leggevo, è molto attenta a questo, anche perché fra i papabili c'è il giovane arcivescovo di Manila, 55 anni, Monsignor Tagle, che ha celebrato più volte la messa per i filippini a Roma. E c'è un sogno per un papa filippino? E tutti quanti sognano di essere eletto il nostro. Ma che significato, diciamo, avrebbe per la comunità filippina avere a Roma proprio un papa filippino? Non conosco personalmente il cardinale, però amici miei, amiche mie che stanno qua in Italia parlano di un leader spirituale proprio al massimo livello. E non solo il cardinale, non è un filippino, diciamo, al 100%, ma anche un cinese, perciò secondo me per l'Asia, soprattutto ai cinesi cattolici, sarà pure un orgoglio. Cosa le manca di più del suo paese? Mi manca molto i miei familiari che ho lasciato giù, le sorelle e i fratelli, e anche i miei compagni di scuola che sono amici tuttora, tutti gli amici che, diciamo, sogno anche di loro e di essere con loro sempre. Riesce anche a tornare qualche volta? Quasi una volta all'anno. Allora, adesso le facciamo sentire un pochino di gusti del suo paese. La cucina delle Filippine ha assorbito elementi di varie cucine internazionali, ma soprattutto di quella cinese, malese e spagnola. L'ingrediente più importante è il riso, che accompagna i piatti più diffusi nel paese, tra cui la carne e le verdure cotti con aceto e aglio, la cernia alla griglia, gli stufati di carne e vari tipi di zuppe, con riso o taglierini in brodo di manzo, pollo, fegato o verdure. Altri piatti tipici che si consumano durante i pasti sono il pesce fermentato e la pasta di gamberi, mentre come contorno viene spesso servita papaya acerba, tagliata a strisce. Il dolce più tipico delle Filippine è invece l'alo-alo, fatto con riso insaporito con caramelle, frutta e latte, mentre insieme alle bevande alcoliche vengono serviti i pulutan, gli stuzzichini. L'aloalo talvolta viene fatto con uno zucchero particolare che viene coltivato e usato proprio nelle Filippine, che si chiama mascobado. Lo zucchero mascobado è uno zucchero integrale estratto dalla canna, di colore scuro, che viene prodotto con un metodo semplice e artigianale, che gli permette di conservare tutti i suoi principali principi nutritivi. Quando si assaggia questo zucchero, lo si può riconoscere perché in bocca lascia un retrogusto di liquirizia. Allora, sentite un pochino di nostalgia per queste cose. Innanzitutto, siamo stati corretti? Questi che avete detto sono i miei preferiti. Ah, bene. Avete fatto piangere il mio cuore, praticamente. E comunque questi cibi si mangiano qua in Italia, Si mangiano anche qui. Quando va a casa di un amico filippino, ce ne sono sempre questi cibi. Ci sono dei ristoranti filippini in Italia? Ci sono, due fast food vicino alla stazione Termini che frequentiamo. Come si dice? Tutti quelli che avete detto stanno in quei ristoranti. Tutti questi piatti, bene. Sì, sì. Il suo preferito è? L'Halo Halo è buono. Si mangia solo d'estate perché è la gratta checca, diciamo, all'italiana. Banana e tutti questi altri si mescolano con latte e si mangia, è molto buono. Quando va nelle Filippine le chiederanno di cucinare italiano? Ah sì, faccio proprio questo. Ho insegnato agli amici come mangiare, cucinare spaghetti alle vongole e ho imparato anche ai miei familiari il semplice sugo al pomodoro con basilico, molto apprezzato. Quindi e nelle anche... Filippine lei va a cucinare italiano, poi viene qui e suo marito cucina questa cucina fusion. Come si dice buon appetito nel suo paese? Non si dice proprio così, però mia madre ci diceva quando ci sono gli ospiti ve lo invito di mangiare e di godere quello che ha preparato lei. Perduti nel mare. Ingredienti per 4 persone. 1 chilo di frutti di mare misti. Code di gamberi, cozze, vongole lasciate sotto l'acqua fredda. Sale. 2 cucchiai di olio d'oliva. 2 spicchi d'aglio. 1 cipolla. 4 pomodori maturi. Prezzemolo. 2 cm di zenzero tagliati alla julienne, un pezzettino di peperoncino. Spellare i calamari, pulire i molluschi togliendo la barbetta delle cozze. In una padella mettete l'olio di oliva, aglio, peperoncino, trito di prezzemolo, mezzo bicchiere di latte di cocco e lo zenzero. Far bollire per 5 minuti girando continuamente e aggiungere 4 pomodori schiacciati, i molluschi puliti, gamberi senza testa e calamari spellati. Coprite la padella e fate bollire finché si sono aperti tutti i molluschi. Dopo circa una decina di minuti, togliete dal fuoco e servite con riso in bianco. Bollito di manzo fusion. Ingredienti per 4 persone. 1 chilo di muscolo di manzo, 2 carote, 1 gambo di sedano, 2 cipolle rosse piccole, 2 chiodi di garofano, 2 gambi di lemongrass schiacciati, 1 spicchio d'aglio, sale, 1 litro ed 1/4 di acqua fredda. In una pentola piena d'acqua fredda, mettere tutti gli ingredienti. Lasciar bollire un paio d'ore schiumando ripetutamente. Alla fine della cottura mettere qualche foglia di bok choy o, se vogliamo un sapore più delicato, mettere qualche foglia di lattuga all'ultimo minuto. La puntata di oggi termina qui. Io mi permetto di dedicarla a tutte le donne che hanno lasciato la loro casa per occuparsi delle nostre case, dei nostri bambini, dei nostri familiari in Italia, come la dedico alla memoria di Assunta Spagnol e Giuditta Basso, che negli anni che furono lasciarono invece il Veneto per andare in Svizzera a fare proprio quello che fanno queste donne straniere ora in Italia. Ringrazio la nostra ospite di oggi, Cavaliere della Repubblica, ex golf, Charito Basso. Grazie per avermi invitato. Buona festa alle donne, è vero, anche se è stata ieri. Lanciamo anche una iniziativa solidale, non a voce ma a fame, la nuova campagna di raccolta fondi di CHAI tramite il numero solidale 45503, attivo da domani fino al 31 marzo. Si sostiene una campagna a favore di 150 bambini malnutriti nella Costa d'Avorio. È veramente tutto, io ringrazio in regia Gianmarco Ferronato, vi ricordo che le ricette si trovano sulla pagina internet del programma, sul sito di Radio 24. Buon appetito a tutti da Valentina Furlanetto e ricordate che i gusti cambiano. You've got to give a little, that's the glory of love.